Letture di Radio 24. Mentre dibatte se accogliere o meno i profughi, l'Occidente continua a non intervenire alla radice per fermare l'avanzata dell'ISIS. Al suo posto si sta intanto schierando una strana alleanza, quella tra Putin e Assad. Ma i nostri nuovi alleati rappresentano pur sempre il male, anche se un male minore, commenta Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. I decapitatori del califfato sono i nemici dell'umanità? Il principale pericolo del mondo? I barbari alle porte? Sì, l'America è assente, lontana, incerta, titubante, impotente? Senza un'idea nemmeno vaga di che fare in Siria e in Iraq? Sì, l'Europa è, come al solito, sonnacchiosa e inesistente, una nullità politica? Sì, dunque, sommati tutti i sì, prepariamoci al giubilo di una coalition of the willing, che a difesa di Assad, un macellaio che in questi anni ha massacrato oltre 200.000 siriani, civili, bambini, non certo i tagliagole dell'ISIS, schiererà dittatori e fanatici religiosi, aguzzini e antisemiti. Inchiniamoci realisticamente all'asse del male minore. Nel suo splendido La Repubblica dell'Immaginazione, la scrittrice iraniana in esilio, Azar Nafisi, parla di un suo connazionale che per amore dei libri è stato frustato a Teheran fino allo stremo. Ecco, gli energumeni della frusta saranno i nostri difensori contro i sanguinari sunniti dell'ISIS. Grazie, Mr. Obama. Grazie, Frau Merkel. Grazie, Presidente Renzi, per aver detto che mai e poi mai l'Italia si assumerà la responsabilità dei raid. Facciamo fare ai signori della frusta e della lapidazione. Affideremo le nostre sorti a Putin, che sa bene come trattare con la mano dura gli oppositori e i dissidenti e mangiarsi impunito la Crimea mentre il mondo assiste paralizzato all'invasione di uno Stato indipendente come l'Ucraina. Siamo stati capaci di fare la faccia feroce solo quando Saddam invase il Kuwait nel 1990. Con i deboli è più semplice diventare i paladini dell'ordine internazionale. Affideremo le nostre sorti agli ayatollah di Teheran, che tra un convegno negazionista e una vignetta irridente sulle vittime di Auschwitz daranno una mano ad Assad, mentre potranno continuare a costruire la bomba per distruggere Israele, sia pur a ritmi rallentati. Affideremo le nostre sorti ad Hamas, quelli che il leader laburista Corbyn ha chiamato our friends, e intanto potremmo ammirare su YouTube le esecuzioni in massa sulla pubblica piazza di Gaza, dei cosiddetti collaborazionisti. Ci affideremo a Hezbollah, ancora una volta our friends, che daranno una mano ai Pasdaran, che daranno una mano ai russi, che daranno una mano ad Assad. Stiamo dalla parte loro. Ci tiriamo fuori. Andremo al cinema a vedere Schindler List per commuoverci sugli ebrei uccisi tanto tempo fa, non su quelli che dovrebbero essere uccisi dai nostri alleati Hamas, Hezbollah e Pasdaran. L'asse del male minore. L'asse dell'ipocrisia. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Pierluigi Battista, I nostri alleati dell'asse del male minore, dal Corriere della Sera del 21 settembre 2015. Lunedì 28 settembre alle 9 torna Mix 24 con i faccia a faccia, le inchieste e i gialli della storia di Giovanni Minoli. Dentro la notizia di Mario Secchi, i salamini di Pietrangelo Buttafuoco, la storia e la musica di Alessandra Fiori, Franco Schipani e tante novità per l'unico programma di Radiovisione. Letture di Radio 24. Mesi di carcere per istigazione al sabotaggio è la richiesta fatta dai PM di Torino per Harry De Luca, lo scrittore che ha sempre sostenuto la causa dei No TAV. La TAV va sabotata. Ecco a cosa servono le cesoie, a tagliare le reti, aveva dichiarato De Luca in un'intervista all'Huffington Post il 1 settembre del 2013. Secondo i giudici, con la forza delle sue parole, lo scrittore avrebbe incitato a commettere reati. Come prevedibile, l'opinione pubblica si è divisa tra chi invoca la libertà di espressione a qualunque costo e chi invece condanna la violenza degli antagonisti e di chi, come De Luca, abbraccia la loro causa. Massimo Gramellini sulla Stampa difende la libertà di opinione, anche se conclude che la richiesta dei PM darà a De Luca una patente di martire che francamente non merita. Si possono non condividere le parole di uno scrittore che benedice il sabotaggio della TAV e l'uso di cesoie per tagliare le reti di un cantiere. Ma da qui a chiedere 8 mesi di reclusione per chi le ha pronunciate, come ha appena fatto il pubblico ministero di Torino, passa un mondo. Il mondo laico e liberale che abbiamo ereditato senza troppi meriti e di cui la libertà di opinione costituisce un caposaldo. Il mondo tollerante ed evoluto che fece dire a Voltaire: «Non la penso come te, però sono pronto a morire per difendere il tuo diritto di esprimerti». Se Harry De Luca si chiamasse Enrico De Lucia, nessuno si sarebbe sognato di portarlo in tribunale. Applicando lo stesso metodo a tutte le istigazioni a delinquere, più o meno anonime, che si leggono sul web, ogni giorno c'è chi si augura la morte di Renzi, Grillo, Salvini, Balotelli, una carneficina. Bisognerebbe imbastire milioni di processi, senza contare che De Luca ha additato come nemica un'opera pubblica, non una vita umana. Questa storia fatta di parole non doveva finire in un dibattimento, ma in un dibattito. Nell'aula di un convegno De Luca sarebbe stato un relatore come gli altri. In un'aula di giustizia diventa subito una vittima. E la condizione di vittima infonde paradossalmente più forza e visibilità proprio alle parole che qualcuno considera talmente pericolose da giustificare la galera. La richiesta del pubblico ministero ha regalato a Harry De Luca una patente di martire che francamente non merita. Questa era l'opinione di Massimo Gramellini sulla Stampa del 22 settembre. Di parere contrario invece Filippo Facci, che su Libero spiega che 8 mesi di carcere, che lo scrittore certamente non sconterà, sono pochi per chi come lui è responsabile di istigazione al reato. Il cittadino Harry De Luca non finirà in galera e del resto non l'ha mai minimamente rischiato. Lo sa chiunque sia informato sui fatti e soprattutto sul codice. Pochissimi, quindi. E però il nostro intellettuale scrittore un record l'ha comunque già registrato. Può vantare la più nauseante cappa di conformismo a suo favore che si potesse vedere da una ventina d'anni, cioè dai tempi di Mani Pulite o addirittura dai tempi del commissario Calabresi. I più lo appoggiano in quanto intellettuale scrittore che, poverino, ha espresso un'opinione. Si cita Voltaire anziché citare gli operai del cantiere TAV che hanno vissuto assalti con cesoie, sassi, molotov e bombe carta. Non si cita mai, neppure, quel militare che resterà invalido per tutta la vita. Ma prima la cronaca. Lunedì scorso a Torino, i PM Andrea Padalino e Antonio Rinaudo hanno chiesto 8 mesi di reclusione per Harry De Luca, intellettuale e scrittore, con la faccia da pubblicità del tonno insuperabile. Notare a proposito di conformismo che uno dei PM, Andrea Padalino, era osannato ai tempi di Mani Pulite, quando era GIP nelle indagini contro Berlusconi, ma più di recente è divenuto accusatore di Beppe Grillo per violazione dei sigilli in Valsusa e maglie ne incolse. Il reato ipotizzato è istigazione a delinquere, anche se tutti preferiscono chiamarlo genericamente reato di opinione. Infatti, il 1 settembre 2013, da membro dei No TAV, De Luca in un'intervista disse che la TAV va sabotata. Le cesoie sono utili perché servono a tagliare le reti. Il dettaglio, omesso quasi sempre, è che in Valsusa, nel mese successivo, vi fu una recrudescenza di attentati, con incendi ed esplosioni in 4 imprese. Giustifica la galera questo? Nemmeno per idea. Ma giustifica il sospetto che le parole di De Luca abbiano sortito un effetto e che perciò siano state pronunciate, sospetto che è divenuto certezza nelle parole di vari testimoni. Tra questi, un ex dirigente della Digos che a processo ha appunto spiegato che gli assalti al cantiere ebbero un sussulto proprio dopo la pubblicazione delle dichiarazioni sul sabotaggio. In parole povere, se io invito a compiere un reato, io compio un reato. Se invito a compiere un reato e poi il reato viene compiuto, beh, è un reato a cui si aggiunge un aggravante. Il principio è questo ed è pure banale. Non c'entra la libertà di parola, libertà della quale l'intellettuale scrittore ha sempre fatto un uso alquanto estensivo. De Luca è stato responsabile del servizio d'ordine in lotta continua, che lui stesso definì paramilitare, in quanto ammetteva per definizione l'uso delle armi. In altre interviste negò che le Brigate Rosse fossero terroristi e che negli anni di piombo ci sia mai stato terrorismo. Disse lo stesso sulla strage di Via Fani. Non terrorismo, bensì una guerra civile, tanto che gli uomini delle scorte uccisi, a suo dire, sarebbero dei caduti, alla stessa stregua dei caduti della sinistra rivoluzionaria. Henry De Luca disse queste cose, però nessuno lo processò per questo. L'hanno fatto ora, dopo che a un'istigazione alla violenza è seguita una violenza. Ora, dopo l'udienza di lunedì scorso, manca solo la sentenza. Dovrebbe giungere il 19 ottobre prossimo. De Luca non ci venga a dire che non ha sentito parlare di Molotov, ha detto il PM Rinaudo nella sua requisitoria. De Luca, secondo il PM, rispose a una domanda specifica sulle Molotov e aggiunse che sabotaggi e vandalismi sono necessari per comprendere che la TAV è nociva. Ecco perché è implicito il contenuto di violenza del parallelismo tra sabotaggi e vandalismi. L'avvocato di De Luca, invece, ha citato Voltaire per sostenere la libertà di manifestazione del pensiero. Le chiedo, giudice, di decidere se le parole di De Luca, che inducono a una riflessione, possano essere pronunciate in un sistema democratico. I Notav, in effetti, furono indotti a una riflessione, ma incendiaria. Poi, in aula, è seguita l'ennesima disquisizione sul significato della parola sabotare, che secondo il vocabolario Treccani significa anche intralciare la realizzazione di qualcosa o fare in modo che un'iniziativa altrui non abbia successo. Henry De Luca ci aveva già provato a spiegare che sabotare non significa solo sabotare, significa anche intralciare, ostacolare, impedire. Ma i Notav col vocabolario hanno sempre avuto poca dimestichezza. Quanto alla libertà di parola, fuori del processo, è stato lo stesso De Luca, o chi per lui, ad aver mostrato di volerla delimitare. Da Wikipedia sono sparite alcune voci che lo riguardavano. Inoltre, la vicepresidente della Fondazione Henry De Luca ha preannunciato querele muovendo non solo i miei legali italiani, ma anche quelli americani. È stato querelato, pare, persino Silvio Viale, ex compagno di Henry De Luca in lotta continua, colpevole d'aver detto che l'istigazione al sabotaggio in effetti c'era stata. Anzi, no, perché le parole di un intellettuale non possono costituire reato, hanno ripetuto più volte gli avvocati dell'imputato. Questo mentre al processo gigioneggiavano drappelli di ammiratori con la maglietta hashtag Io sto con Henry, che era sfoggiata anche da cosiddetti VIP come Gad Lerner, Concita De Gregorio e Sandro Veronesi. Solo lunedì pomeriggio bastava digitare De Luca su Twitter per vedere appelli di Feltrinelli Editore, Luigi De Magistris, Roberto Saviano, Alessandro Robecchi, Antonello Caporale, Michela Murgia, Giuseppe Giulietti, eccetera. Basta che parta uno e partono tutti. Avete ascoltato la lettura dell'editoriale di Filippo Facci, 8 mesi sono pochi, da Libero del 22 settembre. Ricorrendo al voto di fiducia, mercoledì scorso il governo è riuscito a fare approvare alla Camera la riforma del processo penale, che contiene anche una delega al governo a rivedere la disciplina delle intercettazioni telefoniche. Quando 4 anni fa la stessa legge venne proposta dal governo Berlusconi, molti intellettuali e artisti, tra i quali Dario Fo, Toni Servillo, Milena Gabbarelli, Ascanio Celestini e Oliviero Toscani, avevano realizzato dei video per protestare contro quella che veniva definita legge bavaglio. Contro la legge bavaglio si era schierato anche il quotidiano La Repubblica, pubblicando una pagina completamente bianca. Un manifesto del PD recitava: «La democrazia non vuole censure. Difendiamo la libertà di informazione per la sicurezza dei cittadini». Oggi la stessa legge è passata alla Camera, in sordina, senza che nessuno abbia gridato allo scandalo. Che cos'è cambiato? Si domanda Davide Milosa sul Fatto Quotidiano. Semplicemente nulla, solo che oggi a Palazzo Chigi c'è il centro-sinistra di Renzi, scrive Milosa, che poi continua. Tanto basta per sottrarsi alla critica, che nel 2011 invece si diffuse a macchia d'olio. A ricordarlo è anche il blog di Beppe Grillo, che ha postato un vecchio filmato nel quale decine di artisti famosi prendono posizione contro il bavaglio, ripetendo tutti lo stesso slogan, identico. Lo sapete che la legge bavaglio sulle intercettazioni nega a voi cittadini il diritto a essere informati? Adesso lo sapete. La variante era: Lo sapete che con la legge bavaglio sulle intercettazioni sarà il governo a decidere quello che noi giornali e televisioni possiamo pubblicare e che voi potete conoscere? Oggi, che fine hanno fatto gli artisti ribelli? Il giochino, attenzione, non vale tanto per loro, che rispondevano a un invito di Repubblica per la campagna anti-bavaglio. Impossibile non ricordare la prima pagina bianca di Repubblica con un post-it giallo in mezzo e la scritta «La legge bavaglio nega ai cittadini il diritto di essere informati». Oggi, sia chiaro, non mancano i titoli in prima pagina, ma certo appaiono decisamente più ordinari. Mercoledì scorso Repubblica titolava, ma molto in piccolo, «Intercettazioni, via libera alla nuova legge bavaglio». E il Partito Democratico? Oggi il PD al governo dà carta bianca a Matteo Renzi. Ieri, 4 anni fa, si sprecavano i manifesti anti-bavaglio. Uno dei tanti di allora strillava «No alla legge bavaglio, la democrazia non vuole censure». Per tutto il 2010 e il 2011 il PD ha organizzato manifestazioni di piazza da Udine all'Umbria. Nel settembre 2011 a Roma si diedero appuntamento politici, giornalisti e cittadini comuni per dire no alla legge bavaglio. Fu esposto uno striscione con il volto di Berlusconi, un divieto sulla sua bocca e la scritta «Nessuno ti può giudicare, nemmeno il web. La verità ti fa male, lo so», riadattando le parole di una celebre canzone di Caterina Caselli. E così, proseguendo sulla metafora musicale, oggi possiamo dire che quelle erano solo parole, parole, parole. Quello che avete ascoltato era l'articolo di Davide Milosa, «Artisti ribelli e giornali di sinistra. Ecco tutti gli smemorati del bavaglio», dal Fatto Quotidiano del 24 settembre.